veramente simpatiche. Oh, grazie Laura, anche lei, ma a dirlo. No, ma lo sa perché? Perché anche quando parlate di malattie o di denaro che si sta perdendo, voi ci date speranza. Mangerò sempre più blu. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Volare sì, volare no. Viva l'aereo, se partirò, se arriverò. Sarà in aereo. Ritardi, cancellazioni, bagagli smarriti o danneggiati. A molti di voi sarà capitato almeno una volta di essere vittima di disagi o disservizi del trasporto aereo nel corso delle vacanze, quasi al punto da far passare la voglia di viaggiare e di volare. In qualche caso comunque la vacanza viene certamente rovinata da queste disavventure. Le notizie più rilevanti che hanno animato la cronaca estiva quest'anno riguardano la compagnia aerea Vueling, la low cost spagnola, poi alcuni problemi con Ryanair Meridiana, i disagi di Fiumicino. Ci aggiungiamo proprio la notizia che avete sentito nel giornale radio relativa ad un fatto che non riguarda l'Italia, ma chissà se qualche italiano è incappato in questa faccenda che riguarda l'aeroporto di Dublino, dove tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi a causa di questo incendio scoppiato in un hangar dello scalo. Ne parleremo sicuramente nel corso della giornata. Allora, se anche a voi è capitata qualche disavventura con le compagnie che ho citato prima, oppure a Fiumicino quando sono divampati gli incendi, e se in particolare appunto queste disavventure vi sono successe nel corso di questa estate 2015, potete iniziare a raccontarci cosa è successo all'800 24 00 24. Diteci anche come vi siete comportati, come avete pensato di muovervi, se la disavventura è recente, se è finita bene o se siete ancora in ballo. Nella prima puntata di oggi per la pagina di Denari parleremo proprio dei disagi di chi viaggia in aereo, facendo il punto con i nostri esperti. Nella seconda parte della trasmissione, invece, per la pagina di Cuore, oggi faremo una sorta di bilancio di fine estate e proviamo a tirare un po' le somme per quello che riguarda la nostra pelle, perché l'estate lascia il segno, il colore ambrato dell'abbronzatura ci rende certamente più belli o quantomeno ci fa sentire tali, per questo vorremmo mantenerla di questo colorito il più a lungo possibile. La nostra pelle appare più sana, più compatta, le piccole imperfezioni cutanee si sono attenuate, in alcuni casi sembrano addirittura sparite, ma c'è anche il rovescio della medaglia: qualche rughetta in più, macchioline diffuse, pelle secca. Allora, con un occhio al benessere per mantenerlo a lungo e un altro a quei piccoli segnali di malessere che, se presi in tempo, si risolvono senza lasciare traccia, oggi parleremo della nostra pelle dopo l'estate con consigli mirati per ogni situazione. Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Vi chiedo cortesemente di ascoltarmi. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta. Mi scusi, è sicura di averci detto tutto, signorina? Oh, ecco, vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè. Niente panico. L'aereo più pazzo del mondo in tutte le sue versioni, un film sempre molto divertente, e c'è chi non può proprio fare a meno del caffè a bordo. Chi si accontenterebbe di avere indietro i propri bagagli, o perlomeno della puntualità? Ma sappiamo che non sempre per chi viaggia in aereo tutto fila liscio. Le turbulenze a volte non riguardano tanto il volo, per fortuna, quanto il prima, quindi prima della partenza, e il dopo l'arrivo, perché si possono verificare, e chiaramente in questo frangente estivo questi disagi possono inevitabilmente moltiplicarsi: ritardi, cancellazioni, problemi con i bagagli, malfunzionamento degli aeroporti. Allora, 800 24 00 24, se anche voi siete stati vittime di un disservizio, raccontateci le vostre piccole, grandi disavventure, fateci le vostre domande, se qualche cosa di specifico vi è capitato quest'estate, come state risolvendo, se avete risolto appunto come avete fatto. Iniziamo il nostro approfondimento facendo il punto sulle principali vicende che hanno riguardato il trasporto aereo nel corso di questa estate. Lo facciamo insieme, abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegnere Giuseppe Daniele Carrabba, direttore centrale coordinamento aeroporti ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile. Buongiorno ingegner Carrabba, ben ritrovato a Cuore dei Nari, perché lei era stato con noi anche lo scorso anno proprio in questo periodo. Benvenuto. Sì, sì, è vero, grazie, buongiorno a lei e radioascoltatori. Ma è un appuntamento fisso, insomma. Ingegner Carrabba, sappiamo che solo nella prima settimana di settembre, come ENAC, fornirete dei dati esaustivi e completi sull'andamento di questa stagione estiva. Però, parlando in generale dal punto di vista dei viaggiatori, se dovesse tracciare ora un bilancio di questa estate, come la definirebbe sul fronte dei disagi per il trasporto aereo in Italia? Innanzitutto posso dirle sicuramente che c'è una crescita sensibile dei passeggeri. Questo è un primo dato, ovviamente come diceva lei manderemo una situazione dettagliata, però le posso dire che c'è sicuramente una ripresa sensibile rispetto all'anno scorso, parliamo di circa il 7% in più rispetto al 2014, anche a Fiumicino, dove nonostante i vari problemi che ci sono stati a partire da maggio registriamo oltre il 7% di passeggeri in più, quindi speriamo che la voglia di viaggiare in aereo non passi. Speriamo che sia anche un segnale di recupero dopo anni difficili determinati dalla crisi. Certamente quando un po' più di ottimismo c'è, probabilmente l'italiano fa qualche viaggio in più, magari si fa anche questo regalo. Speriamo che sia anche un segnale di questo. Ingegner Carrabba, anche facendo un paragone con le ultime estati, quali sono state le criticità che vi hanno visti particolarmente impegnati e quali sono stati i maggiori disagi per chi ha viaggiato? Disagi nella consegna di bagagli, ritardi, cancellazioni, qual è il quadro che si può fare da questo punto di vista? Guardi, io devo dirle in maniera molto trasparente che sicuramente c'è stato qualche problema che lei tra l'altro ricordava in apertura di trasmissione, in particolare per l'incendio all'esterno all'aeroporto di Fiumicino che si è verificato ai primi di agosto e il conseguente blackout elettrico che c'è stato il giorno successivo. Questo ovviamente ha creato problemi di gestione della situazione che in qualche maniera ha portato a disagi evidenti soprattutto su qualche compagnia cosiddetta low cost, in particolare Wedding, perché sui giornali oltretutto noi abbiamo seguito attentamente la situazione verificando che tutto quello che prevede oggi il regolamento europeo sia stato applicato. Quello che succede a volte in questi casi è che un operatore che ha un determinato numero di aeroplani nel periodo di picco, se c'è un evento inatteso e imprevisto come potrebbe essere il guasto di un aeroplano, si riflette su tutto quel movimento degli aeroplani di quella compagnia su tutto il territorio, che non soltanto nazionale ma anche europeo, perché noi abbiamo visto quello che è successo in Italia, a Fiumicino in particolare, ma le assicuro che i riflessi si sono avuti dappertutto, in particolare in Grecia, in Spagna, in paesi che sono ovviamente meta turistica nei mesi estivi. Infatti, tra l'altro, ingegner Carrabba, adesso considerando questa notizia che è arrivata proprio pochi minuti fa sull'incendio che in questo caso riguarda invece lo scalo di Dublino, dove sono stati bloccati tutti i voli in partenza e in arrivo. Quando capitano fatti del genere in scali non domestici, esatto, e comunque non italiani, no? Per esempio l'ENAC in quale maniera viene coinvolta negli accertamenti per verificare se naturalmente ci sono delle ripercussioni anche su voli con compagnie italiane o comunque se dovesse partire qualche volo che da Dublino doveva arrivare in Italia? Voi in qualche maniera siete chiamati anche a monitorare questa situazione? Assolutamente sì, glielo confermo, anche perché in quel caso, come dicevamo prima, i disagi che in questo momento ci sono a Dublino e quindi il fermo praticamente totale dei voli si riflette sui voli che in qualche maniera avevano come destinazione città italiana, e quindi ogni direzione aeroportuale, ogni gestore aeroportuale ha immediatamente la situazione e quindi di conseguenza si attiva verso i passeggeri in termini di riprotezione e di avvisi soprattutto, perché quello che è importante in questi casi è dare informazioni complete, dettagliate e immediate. È ovvio che se c'è l'aeroporto di Dublino, dove tra l'altro c'è la base anche di Ryanair, questo si può riversare anche, come dicevo prima, sulle città italiane. Quindi si allerta tutto un sistema, ovviamente, di gestione di crisi che cerca di limitare il disagio del passeggero. Voi siete già allertati in questo senso, quindi? Sì, anche noi avevamo letto la notizia, avevamo già avuto la notizia, a parte leggerla dalle varie agenzie, avevamo già avuto la notizia, anche perché negli aeroporti, ovviamente, si sa quali sono i voli ogni giorno che arrivano, quindi se ci sono voli che in qualche maniera coinvolgevano o coinvolgono Dublino, ripercussioni quindi su voli all'interno del nostro paese vengono gestite. Intanto io risegnalo ai nostri ascoltatori il numero verde, che lo ricordano benissimo, ma qualora a qualcuno avesse un blackout mentale in questo momento, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, per raccontarci come è andata la loro estate. Naturalmente speriamo al meglio per tutti, visto che i viaggiatori sono in aumento, come ci raccontava l'ingegner Carrabba poco fa, ma se siete stati malcapitati protagonisti di una disavventura con il vostro bagaglio, con un volo aereo, raccontatecelo, perché così cercheremo anche di commentare se l'esito è stato positivo, a vostro favore, se siete ancora in ballo con una situazione aperta, magari cercheremo di capire cosa dovete fare, perché insomma mi raccontava anche un mio amico ieri sera, un mio amico che arriva da Perth, dall'Australia, è dovuto andare in Francia, questo bagaglio non gli è arrivato praticamente per tutta la sua permanenza francese, adesso è ritornato in Italia, nel frattempo il bagaglio si è fatto un viaggio a Perth, poi da Perth hanno ristabilito l'indirizzo italiano per cui lo hanno riportato in Italia, insomma dopo un mese questo bagaglio è arrivato ieri, non ne cito la compagnia con cui è successo tutto questo, di fatto è stato impossibile per 4 settimane interloquire con qualcuno del call center di questa azienda, dopodiché magari ingegner Carrabba glielo racconto in privato. Quando capita una cosa del genere, appunto, ma è mai possibile che un call center non possa mai rispondere? Io mi rendo conto che in questo periodo le telefonate saranno non decine, non centinaia, ma centinaia di migliaia. Però E come dice lei, sicuramente questo è un periodo dove tutti noi sappiamo che bene o male il disagio è dietro l'angolo, perché chiaramente si parte tutti in questo periodo, ma quello che lei mi dice veramente non dovrebbe accadere, e in più se la compagnia, quindi in particolare la compagnia trasportava il suo amico qui in Italia, per esempio, non è nemmeno necessario rivolgersi al call center, in qualche maniera chi rappresenta la compagnia nel nostro paese, in particolare l'operatore dei servizi a terra, il cosiddetto handler, dovrebbe, appunto, perché c'è una struttura proprio preposta a quello che può essere l'eventuale caso di smarrimento o di disguido del bagaglio, perché molto spesso non è che viene smarrito, viene disguidato magari su altri voli in maniera erronea, e a volte bisogna inseguirlo. Devo dire che anche noi quest'estate abbiamo avuto qualche problema, ma come le dicevo è inevitabile, in particolare le devo dire che succede soprattutto per i bagagli in transito, cioè quelli, per esempio, se lei parte da Palermo e deve andare negli Stati Uniti, farà un Palermo Fiumicino, Fiumicino poi Stati Uniti, e può capitare, e capita che ci sia un disguido e quindi il bagaglio rimanga a Roma. Però i bagagli invece sono tracciati, mediamente poi dovrebbero ritornare, nel caso in cui ci sono un paio di ascoltatori che ci segnalano, poi magari li mettiamo in contatto dopo con l'associazione dei consumatori, che invece si lamentano del fatto che di ritorno dal viaggio di queste valigie non c'è nessun tipo, ecco, gliela faccio sentire subito ingegner Carrabba, l'unica testimonianza che riesco a far interagire con lei, poi la lasciamo perché l'ingegnere ci ha chiesto appunto di poter essere lasciata andare qualche minuto prima della conclusione della prima parte del nostro programma. Le faccio sentire Flaviano da Teramo e lo prendiamo come esempio per poter poi stilare una rosa di suggerimenti da dare ai nostri ascoltatori su come comportarsi in questi casi. Flaviano, benvenuto intanto all'800 24 00 24. Che cosa le è successo rapidamente? Grazie. Sì, buongiorno. Ritorno dall'Islanda il 26 di luglio, non mi è arrivata la valigia. Mi è stato fatto subito il reclamo lì all'operatore addetto a terra, mi hanno dato dei numeri di telefono che non hanno mai risposto. Io ho chiamato anche l'aeroporto di Roma, la DR, mi hanno detto che di solito questi proprio non rispondono. Le mail non rispondevano fino a quando ad una mail della compagnia, dove ho compilato su internet le varie notizie che mi chiedevano sul volo, sul numero del biglietto, del bagaglio, eccetera, mi hanno detto di rivolgermi, mi hanno mandato una mail che era quella che si sarebbe interessata del bagaglio. Ad oggi, dal 26 di luglio, non ho nessuna notizia, nessuno mi risponde mai al telefono e non riesco a sapere. Domani, tra l'altro, mi recherò a Fiumicino personalmente per vedere se almeno nel deposito bagagli si è buttato infatti da qualche parte. Flaviano, la ringrazio. Ingegner Carrabba, allora che spunti prendiamo dal caso di Flaviano? Peraltro, per una compagnia che persevera nel comportarsi in questa maniera, non risponde, non si fa carico fino in fondo di un problema di un viaggiatore come in questo caso, l'ENAC ha la capacità di intervenire o in questo caso è un'altra autorità che magari deve intervenire su questo comportamento non corretto della compagnia? Guardi, sicuramente sul fatto della non risposta alla compagnia noi come autorità italiana possiamo intervenire. Oggi ci sono dei regolamenti che parlano europei, quindi applicabili anche a questa compagnia, che è una compagnia europea, che devono essere assolutamente rispettati, pena sanzioni ovviamente che faremmo noi autorità italiana. Per quanto riguarda il caso specifico posso suggerire, dato che ho sentito che domani si recherà a Fiumicino, comunque di rivolgersi alla società di gestione aeroporti di Roma, quindi alla ADR, che pur non essendo direttamente responsabile sicuramente potrà indirizzarlo verso, come dicevo prima, l'operatore di assistenza a terra, quindi il lender che assiste questa compagnia, per fare in maniera che gli sia data una risposta e che possa trovare il proprio bagaglio, o perlomeno se il bagaglio fosse perso definitivamente, ma c'è un certo tempo e questi possono essere verificati anche sul nostro sito, perché è abbastanza dettagliato da questo punto di vista, a quel punto chiedere la restituzione, che può arrivare fino a 1.000 diritti speciali, che sono circa 1.000 euro. Io spero ovviamente che non si arrivi a questa cosa qua e che il bagaglio possa essere ritrovato, ma gli suggerisco veramente di farsi assistere dagli aeroporti di Roma, che sicuramente da questo punto di vista sono tenuti a indicare perlomeno a chi rivolgersi e chi assiste questo vettore, che è un vettore europeo. Un'altra raccomandazione che posso fare io è quella comunque di procedere con un'assicurazione prima di partire, ve lo assicuro, ripianano le perdite economiche di questi frangenti, rimborsano un tot al giorno e soprattutto se avete pagato il biglietto con la carta di credito molto spesso c'è un'assicurazione aggiuntiva che si fa carico anche di queste situazioni, per cui spero che magari Flaviano, visto che ha fatto un viaggio anche piuttosto lungo in una meta lontana in Islanda, abbia fatto questo, perché qualche volta è l'unica nostra consolazione se appunto la valigia dovesse andare persa o addirittura per sempre, ma anche se dovesse ritornare indietro la valigia, in realtà c'è una copertura temporanea appunto dell'assicurazione per il disagio che abbiamo subito. Ingegner Carrabba, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo a questo punto l'anno prossimo. Se posso certo. Una cosa aggiungere, finale, certo. Parlava di abbronzatura, no? Mantenimento di abbronzatura. Ha bisogno di qualche consiglio dalla nostra dermatologa dopo? No, io magari. Magari prendere un aeroplano e seguire il sole può essere sicuramente una soluzione per il mantenimento dell'abbronzatura. Buon lavoro. Grazie, ingegnere. A presto, buona giornata. Volare. E vola pochissimo l'avvocato Carmelo Calì, legale della Confconsumatori, perché ogni estate in questo periodo presidia attentamente lo sportello del turista di Catania. Lui proprio la vacanza non la fa, perché ha deciso ogni anno di farla lì, sta lì tranquillo. Avvocato Calì, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. È così, no? Anche quest'anno, insomma, le sue vacanze lei le ha spese a beneficio dell'Associazione dei Consumatori? Sì, anche quest'anno per il 10° anno consecutivo. Ormai lo sportello del turista è una realtà consolidata. Ha sentito intanto le testimonianze, le poche che abbiamo avuto modo di sentire fino a questo momento, adesso arricchiremo ancora il gruppo degli ascoltatori appunto con qualche disavventura estiva. Per quello che riguarda l'amico Flaviano, a cui è successa questa disavventura di ritorno dall'Islanda, lei aveva qualche suggerimento aggiuntivo? Sono le cose che accadono sempre. Il suggerimento è che teoricamente la valigia si può ritenere già smarrita, perché passati 21 giorni dalla mancata riconsegna e non riconsegnata si presume smarrita. Fa bene il passeggero ad andare in aeroporto a cercarla, però è l'indicatore di quello che accade. Non è solo questo passeggero che per cercare di riavere il proprio bagaglio è costretto ad andare in aeroporto a capire se riesce, è un comportamento deplorevole da parte e chi dovrebbe adoperarsi invece per riconsegnare i bagagli e fare in modo in ogni caso di rassicurare il passeggero, non illudendolo, ma in ogni caso dandogli delle notizie, delle informazioni. Ancora una volta il gap informativo è quello che diciamo manca nel rapporto fra consumatori e azienda. L'informazione viene messa spesso e volentieri dalle aziende in secondo piano. Allora, tra l'altro, avvocato Calì, adesso sono un po' indecisa sul da farsi, perché no, ancora per la borsa abbiamo un paio di minuti. Abbiamo pronti anche Walter da Bologna e Zaccaria da Roma, a cui chiedo ancora un secondo di pazienza, perché volevo, visto che l'abbiamo fatto con l'ENAC, stilare anche un bilancio dell'attività di quest'anno dello sportello del turista. Noi abbiamo fatto così un rapido excursus prima sulle principali vicende che hanno animato questa estate 2015. Abbiamo ricordato i problemi con la solita Vueling, io ricordo, perché ogni anno con questa compagnia ce ne sono di tutti i colori, eppure continua imperterrita ad operare. Evidentemente i costi sono così vantaggiosi per i viaggiatori che appunto opera tranquillamente, a dispetto di tutta la casistica di disagi che riesce ad arricchire ogni anno in una low cost spagnola. Ad inizio agosto ha avuto grandi difficoltà a Fiumicino, dove addirittura un volo per la Grecia è partito con 24 ore di ritardo. Significa mandare in fumo 2 giorni di vacanza per le persone che prendono questo viaggio. Un problema tecnico di un'aeromobile Meridiana ad Olbia ha causato ritardi fino alle 6 ore lo scorso fine settimana. Ryanair ha raggiunto le 8 ore di ritardo a Palermo per il guasto di 2 Boeing. A Firenze, a causa delle forti raffiche di vento a fine luglio, sono stati bloccati tutti i voli, che si sono raggiunte anche le 20 ore di ritardo, con molte cancellazioni e spostamenti. In questo caso chiaramente poi non è una situazione da attribuire al vettore, però insomma la casistica è molto ampia. Visto che ho citato Ryanair, allora a questo punto ci metto il caso subito di Walter da Bologna, velocemente, al quale risponderemo dopo la borsa. Walter, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi chiamo Walter, sono un viaggiatore così per sfizio, ecco, e sono non vedente. Allora, a me è capitato di partire con la Ryanair. Allora, ho fatto il viaggio Roma-Comiso e anziché partire alle 14.35 siamo partiti alle 15.10, fin qui vabbè, tutto bene. Il brutto è accaduto quando sono tornato da Comiso a Roma, poiché l'aereo sul quale dovevo viaggiare ha viaggiato con 1 ora e un quarto di ritardo e per un pelo ho rischiato di perdere un altro collegamento per insomma raggiungere un'altra destinazione, non tanto aerea quanto ferroviaria. Una coincidenza, quindi. Esatto, una coincidenza. La fortuna è che con me avevo gli operatori della Salamica, che fra l'altro voglio fare un elogio sia alla Salamica di Roma Fiumicino che agli operatori di Comiso. Perfetto, questo quindi lei Walter, insomma, un viaggiatore aveva bisogno di assistenza. Da questo punto di vista effettivamente anch'io vedo sempre il meglio in giro per aeroporti, anch'io ho viaggiato un po' in queste ultime 4 settimane, però insomma sui ritardi e poi la perdita delle coincidenze è un tema che volevamo proprio affrontare con l'avvocato Calì. Lo trasferiamo nella seconda parte della trasmissione dopo la borsa. Cuore e denari. Dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. State disfando le valigie di ritorno dalle vacanze, oppure per voi devono ancora iniziare, o le valigie non sono ancora ritornate? Come proteggere la pelle dopo le vacanze? Nell'ultima parte della trasmissione parleremo proprio di pelle, abbronzature, di quelli che possono essere i pro e i contro dell'esposizione al sole. 800 24 00 24, se notate macchioline, rughette, pelle secca, o se al contrario avete scoperto che col sole la vostra pelle diventa più sana e più bella, raccontateci anche questo. Che te ne vai lontano da qui, chissà cosa vedrai. Torniamo sul nostro aeroplano per la pagina di denari con il nostro avvocato Carmelo Calì, legale della Conf Consumatori. Siede ancora al tavolo anche ENAC, no? Lei è avvocato? Sì. Oltre che ad essere responsabile dello sportello del turista di Catania, attivissimo da 10 anni per Conf Consumatori e ogni anno appunto pronto a raccogliere tutte le lamentele di chi in qualche maniera è malcapitato protagonista di qualche disavventura estiva. Dal d'altronde i viaggiatori sono tanti, come ci diceva prima l'avvocato Carrabba dell'ENAC, che quindi è anche abbastanza fisiologico che qualche disagio in più si possa manifestare. Il problema è che quando poi le compagnie non si fanno carico della risoluzione di questi problemi. Allora, le lamentele più diffuse che sono arrivate allo sportello del turista, avvocato Calì, quest'anno quali sono state? Ma diciamo che quest'anno c'è stato un sorpasso dei ritardi aerei rispetto alle cancellazioni, che spesso, l'anno scorso ci sono state molte cancellazioni, ci sono state anche quest'anno le cancellazioni, ma quest'anno abbiamo registrato un forte aumento dei ritardi e dei ritardi cosiddetti prolungati, che sono quelli, per come li ha definiti la Corte di Giustizia Europea, quelle pari o superiori alle tre ore. E sono quei ritardi nei quali poi il passeggero si ritrova a dover fare i conti con tutto quello che ne consegue e che possiamo immaginare. Naturalmente basso il numero di overbooking, anche se lì c'è, o in ogni caso di negati imbarchi, anche se lì ci sarebbe un pochettino da capire alcune cose che sono accadute, e poi purtroppo c'è sempre il solito flagello dei bagagli, come si accennava prima, perché i danneggiamenti, ritardata consegna, smarrimento a definitivo, purtroppo sono delle cose con cui i passeggeri hanno dovuto fare i conti, quindi anche quest'estate purtroppo molti passeggeri hanno dovuto fare le vacanze senza i propri bagagli. Il flagello delle valigie lo chiama addirittura l'avvocato Calì. Allora senta, prima di rispondere a Walter da Bologna sulla questione delle coincidenze che si perdono, che si rischiano di perdere, e sul flagello bagagli le faccio sentire anche Romano da Milano. Romano, benvenuto. Buongiorno a voi. Cosa le è successo? Milano-Catania, volo bellissimo, puntualissimi, scendiamo la valigia dopo 5 minuti è intervista sul nastro trasportatore, però squarciata. L'avevo comprata due giorni prima. Bene. Per anticipare che avevo ancora lo sconfino. Era piaciuta agli operatori, volevano vedere di che materiale era fatta, evidentemente, Romano. Esatto, nuova di pacca. L'avevo comprata di quel materiale, no, che pubblicizzano, leggerissima, resistentissima. Catania organizzata bene, sebbene fosse un prefestivo, c'era un addetto ai reclami per i bagagli, gli ho fatto vedere come gliel'hanno riconsegliata, esatto. Il contenuto fatto, c'era ancora tutto, Romano? Qualcosa è andato perso? Soltanto una maglietta un pochino sporcata, ma era una cosa ridicola. Ho passato a Taormina una vacanza meravigliosa. Perfetto. Tanto che io a Taormina ci sono stato una settimana, per cui non ho provveduto ad inoltrare a Palermo il reclamo. L'ho fatto rientrando in sede quando sono arrivato in studio, no? Telefonato. E quindi le hanno contestato la tempistica del reclamo? Ma dopo un anno e mezzo, perché questo è successo l'anno scorso e me l'hanno contestato adesso. Vabbè, allora Romano, qua avvocato Calì, possiamo solo che divertirci. Sì, purtroppo è il solito problema, le compagnie hanno torto marcio e si arrampicano su queste eccezioni formali, perché il passeggero avrebbe dovuto fare, dopo la constatazione in aeroporto, una raccomandata alla compagnia aerea entro 7 giorni. Intanto che i termini di prescrizione l'aveva interrotti subito facendo il reclamo all'aeroporto, immagino. Ma quello purtroppo non è sufficiente. Cioè, dopo la cosiddetta denuncia constatazione in aeroporto, è obbligatorio fare una raccomandata alla compagnia entro 7 giorni. Se il passeggero non fa questa raccomandata entro 7 giorni, decade dal diritto e sicuramente a lui hanno contestato questa tardività. Certo. Perché magari in un momento qui c'è anche il problema di capire. Va bene. Allora, ammettendo anche che Romano abbia fatto tutto nei termini non congrui, però che la sua volta la compagnia contesti dopo un anno e mezzo i termini non pertinenti adottati da Romano, mi pare che anche la compagnia non sia tanto in regola. Non so, Ovviamente perché il termine è di decadenza ed è di 2 anni, quindi se lui avesse fatto la raccomandata entro i 7 giorni e ancora nei termini per esercitare un'azione nei confronti della compagnia, perché il discorso dell'anno e mezzo non sta né in cielo né in terra. Per essere precisi, in alcuni casi abbiamo riscontrato che le compagnie fanno un'eccezione sostenendo che vi è una prescrizione semestrale. è stato chiarito anche dai giudici che non siamo di fronte a un'ipotesi di prescrizione ma di decadenza, e abbiamo una decadenza di 2 anni, quindi fino a 2 anni può ancora far causa. Ottimo, quindi insomma Romano si dia da fare, si diverta un po' perché magari qualche risultato lo ottiene. Allora, stavo guardando peraltro gli sms degli ascoltatori, perché prima ho raccontato quello che è successo al mio amico Greg, che ha avuto questa vicissitudine con la sua valigia, che è andata a Parigi, poi è ritornata in Australia per ritornare a Milano l'altra sera, e molti si lamentano del fatto che ho detto, non faccio il nome della compagnia, ma fate disinformazione, perché vabbè, è EasyJet, guardate, ve lo dico senza alcun problema, perché tanto ne capitano tante con tutte le compagnie, perché non penso che gli amici di EasyJet se la prenderanno a male. D'altronde è pura verità quello che gli è accaduto, poi alla fine la valigia l'ha anche riottenuta. Intanto 800 24 00 24 per il racconto delle vostre vacanze, se qualche disavventura vi è capitata, come comportarsi. Ah, ecco, su Walter da Bologna, che abbiamo lasciato lì in sospeso, avvocato Calì. Allora, Roma Comiso, Comiso Roma, un'oretta di ritardo su entrambi i voli. Sulla seconda tratta, quella di ritorno, a pelo è riuscito a prendere la coincidenza il nostro amico. Se l'avesse persa, cosa sarebbe accaduto? Potrebbe... Allora, quindi, qui noi dobbiamo chiarire una cosa. Il ritardo, non è previsto il risarcimento in caso di ritardo aereo dal regolamento comunitario 261 del 2004, quindi spesso le compagnie dicono, siccome per il ritardo non è previsto nessun indennizzo, io non ti devo nulla. Come dicevo prima, la Corte di Giustizia Europea invece ha stabilito che per i ritardi prolungati pari o superiori alle 3 ore spetta la compensazione, e quindi spettano 250 euro, 400, 600 euro di compensazione. In base allora, a quale ragione le compagnie non si adeguano a questa pronuncia della Corte di Giustizia Europea? Per chi ha un ritardo inferiore alle 3 ore, quello che non si dice ai passeggeri è che comunque il passeggero è tutelato per il ritardo dall'altra disposizione normativa, che è la Convenzione di Montreal, che prevede un risarcimento per il passeggero in caso di ritardo a prescindere dalla durata. Quindi se io ho subito un danno per un ritardo anche di semplici 10 minuti, e lo posso provare, io posso chiedere in base alla Convenzione di Montreal, e tra l'altro la Convenzione di Montreal prevede un massimale di circa 4.500 euro come risarcimento danni. Quindi allora in ogni caso, se lui avesse perso la coincidenza, avrebbe potuto, in virtù della Convenzione di Montreal, chiedere risarcimento. Allora, qualche altro caso ancora con il quale divertirci relativamente. Avvocato Calì, io ho fatto un volo, lo racconto a tutti, da New York a Milano sabato notte, compagnia italiana, trattata benissimo, non volevo cenare perché non avevo fame, si sono le povere hostess come dire, molto preoccupate per il fatto che non volessi mangiare come se ne avessi bisogno. Allora, sono morta di freddo in quel viaggio, posso fare qualcosa? Per fortuna non mi è presa nessuna malattia, ma è stato un viaggio gelido. Posso fare qualcosa? Adesso sto scherzando, naturalmente, era solamente così un po' per arricchire di così questioni divertenti stamattina la nostra puntata. Ma certo, certamente, perché il regolamento comunitario potrei anche elementarmi per il troppo freddo. Certo, perché a prescindere da quelli che sono gli indennizzi per ritardi, cancellazioni, eccetera, è previsto proprio espressamente da un articolo del regolamento che questi diritti che vengono riconosciuti non precludono la richiesta di risarcimento di ulteriori danni che il passeggero può formulare qualora li abbia subiti. Quindi questa è una tipica ipotesi di un danno che perché c'è una potremmo dire un'attenzione che la compagnia aerea deve tenere, perché la temperatura a bordo sia adeguata. Però insomma il viaggio è stato confortevole, siamo arrivati persino con mezz'ora di anticipo, quindi non me la sono sentita di andare a reclamare per il freddo, che tutta al più mi ha rovinato un pochino l'abbronzatura, ecco, mi sono seccata un po' la pelle, ma questo problema lo risolvo tra poco con la nostra dermatologa che sarà nostra ospite. Non so chi sentire Zaccaria da Roma, perché avevamo in sospeso lui, poi Maria Antonia, magari se gentilmente vuole scriverci tutti i vostri reclami, li giriamo all'avvocato Calì, che sarà a nostra disposizione per rispondere in privato. Zaccaria, buongiorno, rapidissimo, grazie. Siamo sì, buongiorno. Allora, volo Parigi Los Angeles Air France con mia moglie, il bagaglio di mia moglie arriva regolarmente, il mio no. rimane a Parigi perché per motivi che non sto qui a spiegare. Era bello, insomma. Lo volevano là. No, beh, io mi sono imbarcato da Parigi e loro sostenevano che il mio bagaglio era arrivato tardi dall'Italia, quando c'è. In realtà era arrivato in Italia dall'Italia il giorno prima, quindi è una cosa che non c'è. Comunque, assicurazione da parte di Air France di consegna del mio bagaglio il 48 ore successivamente alla mia destinazione in Messico, perché poi avevo una coincidenza per il Messico. Bagaglio mai consegnatomi, me lo sono andato a trovare io a Città del Messico tramite i del France, telefonando a Città del Messico e facendomelo spedire all'aeroporto dove risiedevo, e quindi io sono all'aeroporto e me lo sono ripreso. Quindi Air France non ha fatto nulla, assolutamente nessun tipo di assistenza. Altra disavventura, sempre in occasione dello stesso viaggio, ritorno Los Angeles-Parigi, il ritardo del volo di 3 ore e mezzo, nessuno ci ha avvisato né con una mail né con un sms, alcun tipo di avviso, e la Air France attribuisce la responsabilità dell'assenza dei nostri contatti ad Alitalia, perché c'era un volo in code share, mentre l'Italia invece dice assolutamente Zaccaria, no. Guardi, quindi... senta, io purtroppo devo interrompere questa parte perché devo dare la linea dottoressa Corinna Rigoni gli ultimi 10 minuti e dedicarli alla parte di cuore. Siccome è un caso piuttosto complesso e vedo che proprio il destino si è accanito su di lei e su questo viaggio, facciamo così: ci scrive in privato, ci ricostruisca l'accaduto e con l'avvocato Carmelo Calì cercheremo di capire se possiamo darle suggerimenti utili per rivalersi su Air France, che a quanto pare non le ha dato nessun tipo di assistenza adeguata. Mi scusi, ma purtroppo devo interrompere. Grazie, grazie all'avvocato Calì, oltre che a Zaccaria. Avvocato, grazie a presto. La inonderemo di mail, quindi si tenga pronto. Adesso abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andiamo alla nostra pelle. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e denari. Abbronzatissima sotto i raggi del sole. Allora, siete abbronzati, è proprio il momento giusto per restare con noi, ma l'abbronzatura se ne sta già anche andando, bellamente rimanendo tutta lì sull'accappatoio. Fermatevi, state partendo finalmente per le vostre vacanze, ripassate con noi le regole di una corretta protezione. Ci aiuta oggi la dottoressa Corinna Rigoni, dermatologa e presidente delle Donne Dermatologhe Italiane. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a voi e buona estate ancora per chi certo. è ancora al mare, buon rientro a chi è arrivato a casa. La sua abbronzatura com'è? Come sta messa? Ma diciamo che media. Fatto tipo abbastanza chiaretto, per cui devo stare un po' attenta. Io dopo tanti anni di duro lavoro ho trovato finalmente la crema che fa per me, quella che fa un bel colore senza incartapecorire la pelle, dottoressa, perché qua poi gli anni passano e gli effetti si vedono anche di un'eccessiva esposizione al sole, come lei ci insegna. Ci sono già tante domande da parte degli ascoltatori per lei all'800 24 0024. La dottoressa Rigoni ci aiuta dandoci consigli e indicazioni sui trattamenti, sui prodotti da utilizzare per mantenere a lungo sulla nostra pelle il colore delle vacanze. Perché il problema è quello, dottoressa, facciamo una gran fatica, stiamo ore e ore lì sotto come delle lucertole per colorarci al meglio, colorirci al meglio, dopodiché 2 settimane di Milano sono più che sufficienti per vanificare tutto quello sforzo, no? Allora ci dice come possiamo fare, perché va via così velocemente l'abbronzatura? Allora va via così velocemente perché per fortuna la nostra pelle ha un potere di ricambiarsi, e infatti un'abbronzatura media presa bene dura generalmente intorno ai 20-30 giorni, che è il tempo che le nostre cellule passano, almeno quelle epidermiche, passano dallo strato basale allo strato più superficiale, quindi diventano cellule corne senza più nucleo ma ancora attive come capacità enzimatica, come diciamo vitalità, sono scoperte anche abbastanza recenti queste. Cosiddette cellule morte, no? Non sono in realtà morte, ma sono ricche di un'attività molto importante anche di difesa, di barriera, di segnale per quanto riguarda tutto un mondo magico di allergie, insomma di importanza proprio per le celluline che stanno al di sotto. Questi sono, diciamo, i veloci giorni che corrono dal ricordo dell'abbronzatura. Ma come diceva lei, sì, facciamo fatica, però proviamo anche tanto piacere, perché quando siamo al sole produciamo endorfine. Dunque sono le nostre droghe vitali, e stare al sole come le lucertole alla fine rivitalizza, fino ad arrivare poi magari a condizioni di tanoressia, che ormai è una condizione che noi dermatologi abbiamo visto in questi ultimi anni, di persone che proprio diventano fanatiche del sole e, come diceva lei, tintarella di sole, ma qui diventa una tintarella mentale. Ecco. Lo so. Però la faccia diventa diversa, dottoressa Rigoni. Sembriamo... diventa diversa anche perché siamo in vacanza. La pelle, sì. Io dico sempre anche ai miei pazienti, è lo specchio dell'anima. La pelle ha una derivazione dal sistema anche nervoso, perché è lo stesso foglietto embrionale, per cui è vero che se siamo felici la pelle è più bella, più luminosa. Cambiamo faccia quando siamo in vacanza, no? Quando siamo felici, quindi anche se siamo pallidi diventiamo belli. È vero, è vero. Allora poi ritorniamo in ufficio e qua ci fanno la guerra, noi abbronzate con questo carico di aria condizionata che ci disintegra tutta l'epidermide, no? Allora che cosa possiamo fare intanto per combattere subito questa prima guerra? Idratarci quanto più possibile. Ecco. Idratarci, ma non soffocare, tra virgolette, la nostra pelle, perché intanto questo turnover cutaneo ci garantisce una pelle giovane. È uno dei problemi dell'invecchiamento della pelle, è proprio questo rallentamento di tutte le funzioni organiche, compresa la pelle. Dunque, se c'è un rallentamento di ricambio della pelle, la pelle risulterà più opaca, più ossidata, perché la cheratina, che è la proteina che costituisce le nostre cellule cutanee, tende a ossidarsi. Dunque, quell'aspetto grigiolino Milano, no, che abbiamo durante anche il periodo invernale, è legato anche a una diminuito turnover delle nostre cellule. Quindi va bene, diciamo, idratarsi, va bene continuare una procedura magari di dermocosmetologica come facevamo al mare, però non esageriamo, perché siamo in un'altra condizione, quindi certo. Non abbiamo più l'esposizione al sole, quindi quelle procedure anche di applicazione di crema magari più che avviata nell'arco della giornata, no? Quando siamo alla spiaggia la crema la rinnoviamo, almeno se vogliamo non scottarci. Infatti. Senta dottoressa, è vero che lo scrub, il guanto di crine, pulire la pelle da tutte le cellule morte, sono come dire delle azioni che possono aiutare al mantenimento anche dell'abbronzatura, quantomeno di un colorino adeguato, che non è proprio l'abbronzatura piena, ovviamente. Anche quelle tragiche cose, no, che succedono spessamente a noi donne sulle gambe, quando poi infiliamo le calze di nylon e abbiamo residui di cellule corne. E quindi... Questa immagine affascinante che abbiamo dato ai nostri ascoltatori delle nostre azioni in privato, dottoressa. Che però è collettivo, perché poi la lamentela è quella. Magari qualche volta, io dico, fare qualche bagno nella vasca da bagno può aiutare anche a eliminare fare un'esfoliazione maggiore, perché tutti facciamo delle docce molto veloci, no, quotidiane, sì. E dimentichiamo che invece ogni tanto il bagno proprio in questi casi aiuta un poco più a ripulire la nostra pelle, quindi questa è una cosa che al mare facciamo quotidianamente più volte al giorno, poi quando si torna in città è un'azione banale, ma aiuta anche questo magari a perdere il colorito in maniera molto. C'è un'ascoltatrice, dottoressa Rigoni, che ci scrive: può influire l'uso continuativo di fondotinta e terra da viso sulla comparsa di macchie, adesso dunque andiamo alle macchioline da sole, nel viso in seguito appunto all'esposizione solare? Allora, è difficile che questo accada, perché di solito la pelle macchiata è legata anche a fattori, diciamo, anche un po' più importanti. Banalmente, insomma, voglio dire, tutti vediamo che le donne in gravidanza hanno più macchie, hanno il famoso cloasma gravidico o melasma gravidico, che si manifesta di più perché ci sono alterazioni di tipo ormonali che intervengono soprattutto nella formazione delle macchie. Si vedono di più nei fototipi più scuri, quindi le donne mediterranee hanno maggiore facilità a sviluppare le macchie solari. Certo che sì, che cosmetici dimenticati sul viso possono provocare delle fotoreazioni che poi inducono anche una comparsa di macchie, però insomma è più raro, perché poi ultimamente i cosmetici decorativi sono anche abbastanza legati a filtri che vengono impiegati almeno un SPF 15 quotidianamente per proteggere anche il viso dal sole della città. Insomma, c'è anche, siccome lo sappiamo bene, tra le donne chi è che ha l'abitudine di presentarsi comunque anche in spiaggia sempre assolutamente a posto dal punto di vista del make up, non è proprio esattamente un'idea vincente, no, quella però di questo possiamo aiutare le nostre ascoltatrici, perché ci sono delle linee, diciamo, anche di camouflage, questi sono mascheramenti cosiddetti, che possono anche dare un colorito, diciamo, omogeneo al viso in persone che hanno anche problematiche cutanee. Mi riferisco ad esempio a chi ha l'acne, a chi ha degli angiomi, a chi ha anche la vitiligine, chi ha delle macchie brune. Ci sono proprio delle sostanze, dei prodotti, cremosi oppure a base di più fluidi come i fondotinta, che hanno un'azione protettiva, un SPF 50. Dunque siamo oltre, ecco, al fatto che magari queste sostanze vadano a indurre delle alterazioni pigmentarie. Certo. Quando è che compare quella macchiolina sulla pelle a causa dell'esposizione solare? Perché può anche succedere che compaia improvvisamente ad una certa età e magari negli anni precedenti non si sia mai manifestata. Allora, ha ragione, perché può comparire all'improvviso, ma in realtà la pelle sta già subendo dei danni cumulativi da anni, quindi tante volte quando i pazienti dicono questo non ce l'avevo, quest'anno non ho preso il sole, quindi è impossibile che la macchia mi sia insorta quest'anno, in realtà è un accumulo, è un danno che non viene riparato, perché dopo un po' la nostra pelle non ce la fa più, e quindi i danni del sole sono danni cumulativi, non è come il fumo di sigaretta che se si riesce a smettere di fumare si riesce a rimediare e avere un aspetto anche più ossigenato del viso. Invece per quanto riguarda il discorso del sole, la pelle assume progressivamente una delle alterazioni, dei danni che possono indurre poi alla fine l'insorgenza di qualche macchia. Importante andarsi a fare vedere poi dal dermatologo se la macchia non ci piace, se la macchia se ha una forma particolare. Se siamo di prototipo chiaro, quindi è sempre più precocemente è meglio fare una diagnosi e sapere cosa è insorto sulla macchia. Quindi insomma, pelle. Se anche fino ad ora non si è mai manifestata, non è detto che l'anno prossimo non compaia improvvisamente. Ad Elisabetta, trentenne, è capitato questo, le chiedo una risposta in 20 secondi. Dottoressa, negli ultimi 3 anni in viso non mi abbronzo in maniera uniforme, ma il viso si riempie di effeliti, devo preoccuparmi? Allora, un fototipo chiaro, perché la pelle in questo modo va proprio anche a comunicare che la signora deve stare molto attenta al sole, quindi proprio occhio al sole e occhio al fatto di avere bruciature, ustioni, ma soprattutto anche una buona fotoprotezione un po' più alta al viso, esatto. È sempre utile per tutti, anche per perché tutti. Si prevengono le rughe, perché il sole sappiamo va a indurre formazione anche di rughe, quella è la cosa che dà più fastidio a tutti. Parole sante che incidiamo sulla pietra, dottoressa. Brava. Rigoni, che ringraziamo di essere stata con noi, ci risentiamo al più presto, magari per i consigli invernali, per un buon mantenimento della nostra pelle. Grazie a Corina Rigoni. Buon sole a tutti. Grazie molte anche a lei. Ci fermiamo, Cuore Denari termina qui, io ritorno tra poco con il giornale radio, con l'aggiornamento di borsa, con Cuore Denari invece ritorniamo domani. Buona giornata.